Cosa resta del passo che non riesce a mandar giù? Il mare oggi è proprio un oreo blu. Ma qui nessuno ti ha perdonata quando da casa te ne sei andata. Quanti progetti in mente poi finire a guardare il cielo amando, sognando, crescendo, correndo, ti prendo, gente distratta che viene a cosa resta del passato? Se una 500 blu e un giradischi rovinato che ormai non va più. Tuo padre non ti ha mai parlato e questo forse l'hai odiato. I grandi hanno sempre da fare, adesso cerchi un figlio per parlare. Amando, sognando, crescendo, correndo, ti prendo, gente distratta che viene a distratta che viene.